GR Europa. Buon pomeriggio dalla redazione, da Laura Bettini. Prosegue a Strasburgo la plenaria del Parlamento europeo che si è aperta ieri. Tra meno di un'ora inizierà la discussione con la rappresentante per la politica estera, Catherine Ashton, sulla situazione in Siria e in Mali. Quest'ultimo è un tema inserito in via d'urgenza dopo l'intervento militare francese nel paese e in vista della riunione straordinaria del Consiglio Affari Esteri di giovedì. Pier Antonio Panzeri, della Commissione Esteri del Parlamento europeo. È giusto non solo che si discuta, ma si verifichi concretamente quale può essere la portata di questo intervento. Forse anche quale può essere il ruolo che può giocare l'Unione in questo contesto. Senza dubbio che non può e non deve essere semplicemente solo quello di sostegno all'intervento francese. Quali preoccupazioni ha riscontrato nei paesi africani con cui è in contatto? La paura soprattutto dell'Algeria è che di fronte ad un possibile attacco sia da parte delle forze africane sia da parte dei francesi nel respingere i jihadisti, in qualche modo questi sfocino nel territorio algerino, così come c'è molta preoccupazione in un paese come la Mauritania. Vi è la necessità di accompagnare l'intervento davvero anche con una possibilità di riprendere immediatamente un ragionamento su come dare un assetto nuovo all'intera area. In mattinata molto si è parlato di economia. Ad aprire la discussione il presidente della Repubblica di Cipro, Christofias, nel suo intervento di chiusura del semestre di presidenza europea. Possiamo dire che il peggio è passato per l'eurozona, ha detto. Poi è intervenuto il presidente della Commissione europea. Gli investitori stanno tornando, la competitività migliora, così come le finanze pubbliche, ma dobbiamo evitare di compiacerci perché la crisi non è ancora superata, dice Barroso. Spazio anche all'esame del regolamento europeo oggi che depotenzia le agenzie di rating. Discussione oggi, voto in assemblea plenaria domani, poi fra qualche giorno il via libera definitivo dei governi. Sono gli ultimi passaggi della nuova legislazione europea sulle agenzie di rating, più la croce che la delizia degli stati colpiti dalla sfiducia, di cui spesso sono state gli alfieri. Ecco le novità. Le agenzie valuteranno le emissioni di debito sovrano non più di 3 volte l'anno, se non richieste dagli stati. Bocciature o promozioni non arriveranno più all'improvviso, ma secondo un calendario noto. Obblighi di trasparenza in caso di quote possedute nelle entità sottoposte a valutazione. Non è passata l'idea più radicale di proibire il rating sulla capacità di ripagamento dei debiti da parte degli stati, a meno che non fosse richiesto. Ciò che sul tavolo, secondo molti, è già tanto. Antonio Polio Salimbeni, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Strasburgo. Ed è tutto per questa edizione di GR Europa. Appuntamento a domani alla stessa ora. GR Europa è sostenuto dal Parlamento europeo. Info su radio24.it.